9 in punto. Buongiorno ancora da Gianfranco Fabi. Parliamo anche oggi della crisi economica e finanziaria che ha coinvolto pesantemente anche l'Italia. Parliamo delle misure che sono state adottate venerdì scorso e annunciate venerdì in serata dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Apertura alle liberalizzazioni, vincolo di pareggio di bilancio nella Costituzione, anticipo dei tempi della manovra economica per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. L'effetto di questi annunci sembra essere positivo sul fronte dei mercati e fortunatamente lo spread tra BTP e Bund tedeschi sta riducendo sensibilmente, sta arrivando quasi a quota 300 dal quota 400 in cui era. La borsa di Milano ha aperto in sostanziale parità e forse sta prendendo un po' le misure sulla situazione interna e internazionale, situazione internazionale che è pesantemente condizionata peraltro dalle difficoltà americane. Ma restiamo in Italia. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Saluto gli ospiti di oggi. Antonio Catricalà, buongiorno presidente. Buongiorno a lei, dottor Fabi. Antonio Catricalà è presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, quindi in prima linea sul fronte delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni. Saluto Nicola Rossi, buongiorno senatore. Buongiorno. Senatore del gruppo Misto, ha presentato una proposta di legge nei giorni scorsi che poi è stata nei fatti e nei metodi in pratica accolta dallo stesso governo per bloccare nella Costituzione il pareggio di bilancio. E saluto Don Ascio Masciandaro, buongiorno Masciandaro. Buongiorno. Docente di economia politica alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, attento osservatore della situazione economica interna e internazionale. Io inizierei dal presidente Catricalà. Lei nella sua relazione del fine giugno già metteva in luce il fatto che l'Italia avesse bisogno di liberalizzazioni, che il processo di liberalizzazione era andato diminuendo, rallentando negli ultimi tempi anche per effetto della crisi e che questo peraltro ha comportato anche un ampliamento della crisi, perché l'Italia soffre non solo di debito pubblico, ma il debito pubblico è anche un effetto della mancata crescita, una mancata crescita che è dovuta alla scarsa competitività delle imprese italiane. Quindi se si riavvia questo processo, presidente Castricalà, si va nella direzione giusta? Sì, è la giusta direzione. Non era solo un problema di crisi, era anche un problema di non condivisione politica di alcune idee liberalizzatrici che oggi invece mi sembrano essere entrate a pieno titolo e nel dibattito. Io credo che la forza delle lobby, delle categorie privilegiate abbia frenato molto l'azione del governo, ma soprattutto l'azione del Parlamento, e credo anche che il referendum sui servizi pubblici locali abbia portato un fermo all'unica liberalizzazione vera che aveva fatto questo Parlamento, quella delle cosiddette municipalizzate. Questo naturalmente non significa che non si può tornare sul tema anche subito, bisogna tornarci con intelligenza, come bisogna tornare con intelligenza sul tema delle liberalizzazioni. Io non credo che basti una norma manifesto, penso che occorra esaminare punto per punto dove c'è il nodo che impedisce al mercato di svilupparsi liberamente, e lì, fatta un'analisi molto seria dei costi e dei benefici di una liberalizzazione, procedere con decisione, però usando il bisturi, non usando l'accetta. Questo vale per le professioni, vale per i grandi monopoli di Stato e vale anche naturalmente per i servizi, perché non è detto che adesso per forza dobbiamo tenerci tutte queste IRI locali. In fondo è vero che c'è stata una battuta d'arresto, però è anche vero che il trattato impone che i servizi, il trattato europeo ci impone che i servizi europei debbano essere affidati a gara e quindi debbano essere comunque oggetto di un mercato. Ecco, quindi lei dice ci sono molti settori su cui si può intervenire, si deve intervenire ovviamente con grande attenzione, però si deve intervenire. Ecco, quali sono secondo lei le priorità? Da quali settori le cominciare? Le priorità sono state indicate all'antitrust, quindi io parlo quasi in veste ufficiale. Noi pensiamo che bisogna intervenire subito con un'autorità dei trasporti che potrebbe anche essere a bassissimo costo se si affidasse alla gestione di questa struttura, la vigilanza sui trasporti e sulle liberalizzazioni in quel settore a un'autorità già esistente. Questo regolatore indipendente avrebbe i numeri, le capacità per far entrare nel mercato nuovi competitors che oggi invece faticano in modo incredibile ad entrare. Abbiamo assistito alla vicenda di Arena Ways, un imprenditore che in qualche modo aveva scommesso sul trasporto ferroviario e ora ha portato il libro in tribunale. Li ha portati per varie ragioni, ma credo soprattutto perché il suo progetto non è stato approvato dal regolatore e probabilmente l'avversione dell'incumbent che è Ferrovie dello Stato certamente non gli ha giovato. Ecco, ricordiamolo questo progetto, perché prevedeva dei treni tra Milano e Torino per i pendolari e invece gli è stato proibito di fare le fermate a Novara e Vercelli e quindi praticamente gli è stato tagliato l'erba alle radici, quindi quell'operatore che voleva fare concorrenza alle ferrovie non ha potuto fare concorrenza alle ferrovie. Sì, e non solo, ma poi anche le sue istanze di revisione di questa decisione tardano molto ad arrivare, sono state insomma degli ostacoli. Noi siamo intervenuti aprendo una dolorosa procedura per abuso di posizione dominante nei confronti di Ferrovie, dico dolorosa perché Ferrovie è una grande azienda nazionale, è un nostro orgoglio nazionale e purtroppo l'abbiamo dovuta trattare da inquisita. E beh, quando però si compiono degli atti, cioè può fare salvo il 99% degli atti, ma una persona può essere inquisita anche per l'1%. Bisognerebbe che... Sono state naturalmente tutta una serie di polemiche, però la cosa importante è che sia sotto osservazione anche un'entità così importante come Ferrovie da parte dell'antitrust. Purtroppo la nostra azione non può mai essere così forte come quella dell'autorità politica, di un regolatore, perché noi andiamo sostanzialmente a sanzionare comportamenti già avvenuti e lì probabilmente c'è la necessità di un intervento forte di un'autorità di governo. Ecco, certo. Ecco, vorrei fare una domanda a lei, Presidente Catricalà, e poi la stessa domanda anche a Nicola Rossi. Il governo venerdì scorso ha parlato di riforma dell'articolo 41, si era già parlato 6 mesi fa, per mettere nella Costituzione la libertà di mercato, per far sì che sia permesso tutto tranne quello che è esplicitamente proibito. Ora, secondo lei è più importante mettere una norma nella Costituzione? Sappiamo che cambiare la Costituzione richiede anche tempi lunghi, come minimo 6 mesi proprio per la procedura di revisione costituzionale, oppure è più importante intervenire su regole specifiche, concrete, su singoli settori, su leggi che possano determinare immediatamente dei risultati? Presidente Catricalà. Ma guardi, a un principio come quello di cui si parla, l'antitrust non può dire di no, però è molto più importante fare la legge sulla concorrenza e la legge sulla concorrenza che affronta i nodi come noi pensiamo vadano affrontati, quelli della governance bancaria, quelle delle autostrade e quelle degli aeroporti, per creare un mercato che consenta agli imprenditori poi di operare nel mercato. La norma sostanzialmente costituzionale avrebbe un valore di ritenere ogni restrizione successiva e che non sia giustificata, proporzionata e che avvenga con legge ordinaria, illegittima dal punto di vista dello statuto, della carta fondamentale. Quindi va bene cambiare la Costituzione, però facciamola subito sulla concorrenza, perché siamo in ritardo ormai di 2 anni. 2 anni su quello che il Parlamento aveva imposto al governo di fare con una legge appunto di 3 anni fa. Ecco, speriamo che il Parlamento e il Governo, che hanno promesso di lavorare anche in questo periodo di ferie, almeno sbrighino l'arretrato. Senatore Nicola Rossi, lei ha presentato un disegno di legge per fissare appunto nella legge, così come nella Costituzione, il vincolo del pareggio di bilancio. Il Governo sembra che abbia seguito il suo consiglio. Sì, mi sembra di capire di sì. Credo che le commissioni bilancio ed affari costituzionali di Camera e Senato si riuniranno giovedì per sentire dal Ministro dell'Economia l'opinione del Governo in merito e su che strada il Governo vuole prendere. Io personalmente lo considero un grosso passo avanti, diciamo, e se venisse portato a termine anche in tempi rapidi, io credo che in 6 mesi la cosa si possa fare, contribuirebbe a cambiare in maniera molto significativa la cultura economica di questo Paese e quindi a informare le politiche. Il senso di una operazione di questo genere, secondo me, è facilissimo da comprendere. Veda, noi proprio in queste ore, nelle ore passate, abbiamo chiesto all'Europa che l'Europa in qualche maniera si faccia carico di essere l'ombrello per tutti, non solo per l'Italia naturalmente, diciamo, ma l'ombrello per tutti nel momento in cui c'è una crisi finanziaria in atto seria. Trovo del tutto ragionevole, del tutto ovvio che l'Europa chieda a questo punto a noi per primi, ma non solo a noi, di adeguarci a quelli che ormai sono gli standard europei. La Germania ha un pareggio di bilancio in Costituzione, l'ha già inserito 2 anni fa, la Francia ha cominciato lo stesso percorso qualche mese fa ed è già, diciamo, ad uno stadio abbastanza avanzato. Io credo che in questa maniera noi segnaleremmo solo la nostra volontà di essere europei a pieno titolo e daremmo un segnale di grande fiducia agli altri paesi europei che si apprestano con ogni probabilità, sono già intervenuti, diciamo, da questo punto di vista a proteggere non solo l'Italia ma anche gli altri paesi in un momento difficile. Ecco, senatore Rossi, ma che differenza c'è tra questo vincolo del pareggio di bilancio e la norma che è già in Costituzione che ogni nuova spesa deve avere la sua copertura e quindi di fatto l'articolo 81 della Costituzione prevede già in teoria il pareggio di bilancio, perché se ogni spesa deve essere coperta è chiaro che non può essere coperta a debito. Allora qual è il passo avanti che si fa con queste nuove norme? La differenza è facilmente misurabile, la differenza è il 120% di debito su PIL, perché questo è quello che abbiamo creato con una norma che i costituenti volevano che fosse un'espressione del principio del pareggio di bilancio. Guardi, questo lo disse con molta chiarezza durante i lavori della costituente Ezio Vanoni e lo riprese naturalmente anche Luigi Einaudi. Chi poi si trovò ad applicare quella norma la applicò in maniera tale da snaturarne completamente il senso e quindi con il risultato di arrivare, diciamo, ad un debito, come ho detto, che è il 120% del PIL. No, l'articolo 81 quarto comma temo purtroppo che non sia sufficiente, temo che debba essere scritto con chiarezza in Costituzione che non si dà luogo a nuovo debito. E questo credo che faccia veramente la differenza. Quindi che di fianco alle spese dello Stato ci devono essere entrate da parte dello Stato, non solo entrate fiscali probabilmente, ma anche entrate da altre fonti, per esempio con le privatizzazioni. Un'occhiata ai mercati finanziari, ci sono Londra e Francoforte che stanno calando, Milano invece dopo un primo approccio diciamo cauto e prudente sta crescendo del 3%, così come sta crescendo anche la Borsa di Madrid. Gli spread si stanno riducendo soprattutto sul fronte italiano e questo sono scesi sotto quota 300 punti lo spread tra BTP e Bund. Questo vuol dire che le acque si sono un po' acquietate almeno sul fronte dei mercati finanziari italiani. Allora chiedo a Donato Masciandaro, questa manovra della BCE è una manovra strettamente congiunturale o può essere considerata come una svolta? Congiunturale. Siamo su un piano inclinato. Le manovre del giorno per giorno possono cambiare in bene o in male l'inclinazione. La prima conferenza stampa del Presidente col Consiglio peggiorò l'inclinazione. Oggi le manovre della BCE probabilmente miglioreranno l'inclinazione, ma il piano inclinato rimane. Le famose riforme strutturali da fare, perché non bastano più i principi, sono quello che i mercati chiedono e devo dire che, se posso fare due commenti sugli interventi del Presidente Catricalà e del senatore Rossi. Condivido completamente quello che diceva il Presidente. La politica antitrust è stata orfana di un supporto politico e questo dall'esterno era evidente. Per avere un antitrust forte occorre una volontà politica forte. Speriamo che questa volta ci sia legge sulla concorrenza inclusa. Non ho la stessa visione del Presidente su una ulteriore autonoma, una ulteriore authority, ho una visione accademica scientifica diversa, le authority meno sono meglio è, l'importante è che funzionino bene. Su quello che diceva il senatore Rossi, il principio della del pareggio in bilancio ci metterebbe alla pari, all'avanguardia, credo che non basti quello, ma è fondamentale. Aggiungo e mi taccio, sono invece un po' preoccupato per l'altra modifica che il governo Berlusconi ha annunciato riguardo alla libertà d'impresa. In un paese con un'alta propensione alla illegalità, il messaggio che tutto è libero fuorché quello che è vietato è un messaggio che mi preoccupa. Forse è meglio lavorare su altri fronti piuttosto che lanciare messaggi che hanno poco di teoria economica e molto di demagogia. Ecco, su questo fronte, Presidente Catricalà, l'autorità ha messo in risalto, come negli ultimi, proprio negli ultimi anni, alcune tendenze della politica abbiano rallentato o sono andate in senso contrario al liberalismo, per esempio le nuove norme sull'OPA, le riforme dei privilegi per gli avvocati, la restrizione per l'attività delle parafarmacie, il freno alla liberalizzazione del trasporto ferroviario, le restrizioni in materia di autotrasporto, autoscuole, noleggio con conducente. Quindi negli ultimi anni, anche per effetto in fondo della crisi economica che ha spinto a credere che l'intervento dello Stato sia necessario non solo come regolatore ma anche come attore dell'attività politica, ha convinto molti parlamentari. Adesso la crisi economica dovrebbe avere l'effetto opposto, cioè convincere che bisogna liberalizzare? Ma sì, perché il vero nodo sta in questo, cioè se tutti si proteggono dalla crisi, tutti gli altri saranno frenati dalle protezioni altrui. È chiaro che un processo di liberalizzazione non è una attività estemporanea, in questo senso sono d'accordo con Masciandaro sul fatto che la norma di per sé sia solamente una norma principio, poi non riesce ad avere una concreta attuazione se non è calata in una realtà di mercato e se non si creano nel mercato le condizioni effettive per un miglioramento, anche perché le liberalizzazioni portano una serie di benefici e certamente aumentano il PIL, ma l'effetto non è immediato. L'effetto che si ha liberalizzando una professione è di perdere l'affezione, la simpatia di quella professione che non sarà rivolta ai governanti che hanno fatto quell'attività. Poi, quando la professione sarà effettivamente liberalizzata, quando i consumatori avranno un reale beneficio dal miglioramento dei servizi e dall'abbassarsi delle tariffe professionali, allora ci sarà un ritorno. Ecco perché le liberalizzazioni, io lo dissi subito, andavano fatte all'inizio della legislatura. Comunque, meglio tardi che mai, purché si cominci, e purché si cominci facendo un business plan, dobbiamo fare un piano di interventi, un piano che deve affrontare tutti i singoli temi senza demagogia. Per esempio, abolire gli ordini è proprio necessario? Vediamolo, forse sì, forse no, forse alcuni ordini vanno conservati, forse basta solamente riformarli, forse ne basta attenuarne i poteri, oppure eliminare ogni tariffa. È possibile, sì, si può fare, però per alcune categorie si possono immaginare dei prezzi minimi legati alla sicurezza? Forse sì, forse no. Bisogna fare una analisi di ogni situazione in modo tale da convincere gli stessi appartenenti, non certo della bontà del sacrificio che si richiede loro, ma del privilegio che sarà loro restituito quando il mercato diventerà più grande. Oggi si litiga per una fettina di torta piccola piccola. Certo, quando il mercato sarà allargato la torta sarà intera, gli attori saranno di più, ma ciascuno avrà una torta, una fetta di torta più grande. Certo, questo, il problema è far crescere appunto la fiducia anche dei cittadini, e quindi andare verso una politica che sia concreta di apertura, in cui tutti possano guadagnare, che nessuno difenda delle posizioni proprie di privilegio, anche perché queste posizioni di privilegio risultano poi di rendimento, diciamo così, se possiamo essere a livello economico, inferiore a quello che si potrebbe avere se cresce la torta per tutti. Riguardo alle professioni, se posso fare una piccola parentesi, per alcune professioni, quella dei giornalisti, però io l'ordine lo abolirei del tutto. Bentrovati a 9 in punto da Gianfranco Favi. Stiamo parlando di liberalizzazioni, privatizzazioni, vincoli di bilancio, che cosa fare per affrontare la crisi economica, con Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il senatore Nicola Rossi, che ha presentato un progetto di legge per bloccare il bilancio, imporre il vincolo del pareggio di bilancio, e con Donato Masciandaro, docente di economia politica alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore. Ma lascio la parola a Riccardo da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professor Catricalà. Prego. Per quello che riguarda le liberalizzazioni, soprattutto quelle delle ferrovie, che liberalizzazione è se io privato faccio girare il mio treno sui binari della ferrovia? I binari dell'FS li hanno pagati i cittadini. Poi pare, però non so se è vero, che il nuovo treno MTV, quello nuovo che dovrebbe far Montesemolo, costi per lo stesso percorso 20 euro in più rispetto a quello che costa effettivamente un Frecciarossa. Quindi che guadagno c'è? Che liberalizzazione ho fatto? Ho fatto guadagnare qualcuno sempre a scapito del cittadino. Poi, ad esempio, qua a Bologna esiste una navetta che fa il trasporto, che va prevalentemente all'aeroporto, che ha, rispetto all'1,50 che costa un autobus normale, questa costa 6 euro. Quindi qual è il guadagno per il cittadino? Ma nessuno la obbliga a prendere la navetta da 6 euro, nessuno obbliga nessun altro ad andare sui treni di Montezemolo, quindi sarà il mercato a decidere, potrà scegliere tra il Frecciarossa a 20 euro in meno e il nuovo treno di NTV a 20 euro in più, e se sceglieranno per il treno a 20 euro in più ci sarà qualche ragione, come servizio, come rapidità, come puntualità, come efficienza, come simpatia. Quindi avere la possibilità di scegliere, certamente il cittadino può scegliere anche quello che costa meno. Ma comunque faccio rispondere al presidente Catricalà. Ma le ferrovie in realtà svolgono due servizi, un servizio cosiddetto universale e un servizio in concorrenza, che dovrebbe essere in concorrenza. Il servizio universale è un servizio che può anche andare in perdita, perché devono garantire a tutti i cittadini di muoversi liberamente nel territorio nazionale attraverso lo strumento ferroviario. Naturalmente questo servizio però gli altri cittadini tutti insieme lo paghiamo, perché al servizio universale bisogna in qualche modo fare fronte con le risorse pubbliche. Purtroppo questa distinzione non è così chiara però nelle attività delle ferrovie e neanche nella nostra legislazione, per cui ci può essere una commissione tra servizio universale e servizio in concorrenza. Questo che cosa comporta? Che il cittadino potrebbe pagare anche di più di quello che è strettamente necessario per garantire il servizio universale. Non è una ipotesi concreta, è solo una ipotesi. Per evitare questa ipotesi, il servizio universale dovrebbe essere messo a gara. Quindi si devono mettere a gara le attività, per esempio, di servizio locale, le attività per i pendolari, le rotte, le tratte che non sono particolarmente desiderabili, e chi vince questa gara svolge il servizio. Naturalmente la vince chi offre il miglior servizio al prezzo minore, e già ecco il primo vantaggio per il cittadino: c'è una gara che ci dice chi è il migliore, chi è quello più economico. Poi vale quello che diceva lei, dottor Fabbi, perché effettivamente Riccardo da Bologna dice: ma perché io dovrei prendere un altro treno se c'è già quello? Perché l'altro treno, per attirare Riccardo, abbasserà i prezzi e migliorerà i servizi. Questa è una regola comune a tutti i mercati, non è una regola solo italiana e europea. Laddove c'è concorrenza, laddove c'è varietà di offerta, i prezzi scendono. È una di quelle regole che si insegnano all'università e naturalmente poi ha delle deroghe, ma non per un servizio come quello ferroviario, in cui naturalmente, siccome il treno è uguale sostanzialmente sia che lo prenda rosso sia che lo prenda verde, io prenderò quello che mi porta prima, più comodamente e a prezzo minore. E quindi certo, in questo senso la liberalizzazione funziona se mette a disposizione dei servizi e se mette a disposizione anche delle infrastrutture. Lo stesso vale anche per i telefoni. Vediamo una pluralità di operatori telefonici che utilizzano le reti messe a disposizione, che appunto il monopolista prima e anche gli altri hanno dovuto mettere a disposizione, e vendono e poi offrono servizi per gli altri. Gli operatori... Sì, prego, Presidente. Voglio aggiungere che nel campo telefonico il monopolista di prima non ha perso un euro del suo fatturato. Certo. Perché poi quando il mercato aumenta, quando la torta, come dicevamo, si ingrandisce, è chiaro che ci sono fette più grandi per tutti. Grazie. Stefano da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un tassista, chiamo da Roma. Mi volevo rifare a quello che diceva prima il dottor Cavirà per quello che riguarda i prezzi e la concorrenza, almeno nel settore dei taxi. Vorrei sapere come si fa a abbassare i prezzi, a abbassare le tariffe quando si liberalizza un settore che già è in crisi e che fa i conti tutti i giorni con i costi della benzina, delle assicurazioni, dei costi auto e con le tariffe ferme a 6 anni fa. Non solo quello lì, ma vorrei anche dire che poi tra l'altro siamo stati aumentati di quello che riguarda la minimum tax e paghiamo il 50% di tasse. Come si fa ad aumentare il numero dei taxi, aumentare i servizi e abbassare i prezzi? Questa è una cosa che me lo devono spiegare. Io credo che adesso a Roma siamo 8.000, io parlo di Roma perché lavoro a Roma, siamo 8.000 che vanno avanti. Se qui liberalizzano diventeremo 10.000 che non vanno più avanti, che moriranno di fame, con tutte le conseguenze, perché a un certo punto poi più sotto di quello non si può scendere. Quindi le liberalizzazioni mi stanno anche bene, ma bisogna vedere fino a che punto. Ringrazio caro Stefano, come sempre in Italia le liberalizzazioni vanno bene, basta che le facciano gli altri. Allora, Presidente Catricalà, cosa facciamo per i tassisti? Ora sembra quasi l'araba fenice il problema dei taxi, che riprende vita dalle sue ceneri. Cioè qui è chiaro che il tassista soffre di tutte le restrizioni degli altri mercati, è chiaro che l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile sale in maniera esponenziale, perché anche in quel settore non c'è un giusto grado di concorrenza, e lo stesso vale per la benzina. Quindi dal suo punto di vista Stefano ha perfettamente ragione, però il politico che sta a guardare tutto il sistema deve fare in modo che Stefano possa viaggiare con un'assicurazione che costa di meno, con prezzi minori, e possa, secondo me, eliminando il sistema delle tariffe, fare i prezzi che il mercato in quel momento gli garantiscono che può fare, perché questo significa poi liberalizzare, uscire da sistemi chiusi e dare a tutti più opportunità. È chiaro che poi con questo sistema la tariffa, il prezzo scenderebbe, però aumenterebbero certamente i clienti. Ecco, dai messaggi che arrivano con i nostri sms 349-238-6666 sembra che ci sia un po' di nostalgia per uno stato controllore. Dice: ma abbiamo liberalizzato i telefoni, le tariffe sono salite, cosa tutta da dimostrare. Non è vero, infatti è vero. Abbiamo liberalizzato le assicurazioni e le assicurazioni stanno salendo, ma qui forse non le abbiamo mai liberalizzate. Le assicurazioni sono non c'è stata una liberalizzazione, ci fu all'epoca quando una privatizzazione del sistema bancario e quindi anche di quello assicurativo per la parte che era bancaria. Però il tema delle liberalizzazioni è un tema che passa per la governance di questi istituti, e la vera liberalizzazione è non consentire a consiglieri di amministrazione di una banca concorrente di entrare a far parte in organi di governance di un'altra banca. Questo è il minimo, grazie Presidente. Sentiamo Mario da Parma. Pronto? Pronto, dica. Pronto. Io credo che si sta facendo molta propaganda da tutte le parti, anche un po' di ideologismo, nel senso che uno può calare alcune formule come liberalizzazione, privatizzazione, eccetera, eccetera, ma deve guardare la realtà in cui le cala. Tutto oramai credo che abbia fatto un po' il suo tempo, sia quelli che prevedevano uno Stato onnipresente sia quelli che prevedono che la liberalizzazione sia la panacea di tutti i mali, ammesso che le liberazioni si possano fare in un paese come l'Italia. Vado per schemi. Uno, si ignora che in Italia negli ultimi 20 anni è passata la più grande, diciamo, distribuzione iniqua della ricchezza, cioè si è trasferiti gran parte della ricchezza da pensioni e stipendi, diciamo i redditi da lavoro, alla rendita e al profitto. Secondo, quando uno parla di crescita, io mi devo porre innanzitutto il problema se crescita equivale ancora a consumismo sfrenato, e cioè se è sostenibile il tipo di crescita effettuata fino adesso. Penso che l'Italia di questo non ha più bisogno, o probabilmente non solo non ha più bisogno, ma non è più in grado di esprimere una crescita sfrenata così come l'abbiamo conosciuta, un consumismo basato magari sui debiti, sull'inquinamento, sulla distruzione dei beni paesistici, eccetera, eccetera, sulla edilizia a tutti i costi anche sulle spiagge. E poi, diciamo, detto questo, uno deve fare i conti con ciò che ha, e cioè le liberalizzazioni in Italia o quelle che passavano per liberalizzazione, giustamente come dice Catricalà, non è che si può parlare in tutti i casi di liberalizzazione, si è detto ma, ad esempio, nei servizi municipali non è passata una liberalizzazione, è passata una monopolizzazione che ha portato appunto parte di quei trasferimenti dai redditi da lavoro al profitto e alla rendita. Ecco, la ringrazio. Lei ha iniziato accusandoci un po' di ideologia, ma mi sembra che lei di ideologia ne faccia molta con queste grandi divisioni tra il profitto e la rendita, questi passaggi di ricchezza dal lavoro a quelli che si chiamavano una volta i poteri delle multinazionali. Io starei sul concreto. Indubbiamente il mercato è una cosa complessa, difficile è fare dei passi avanti, bisogna farli con estrema cautela, e è difficile anche dare dei giudizi. Giudizio ovviamente su cose di questo tipo vanno fatti anche attraverso delle analisi su singoli settori, sulle singole potenzialità, senza cercare appunto di dare dei giudizi tranchant. Enzo da Bologna, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Ascolti, io faccio una domanda molto più pragmatica, quindi non così complessa e articolata come chi mi ha preceduto, e non voglio neanche commentare lo sfogo che trovo assolutamente ingiusto del tassista. La mia domanda è questa: benissimo, si parla di privatizzazioni, tutto molto bene, sono tutte necessarie, siamo tutti d'accordo, ma poi chi le approva in Parlamento? Non dimentichiamoci, circa 2 o 3 settimane fa, quando c'è stato la proposta di abolire, se non sbaglio, l'ordine degli avvocati, c'è stato un fronte trasversale che andava da destra a sinistra, quasi a 360 gradi, che ha impedito, anzi abbiamo rischiato il fatto che non venisse approvata la manovra, quindi con tutte le conseguenze che potevano derivare per il nostro paese, conseguenze catastrofiche, perché questi signori, se ben ricordo 67 o 87, si sono alleati tutti quanti per proteggere il loro orticello. Allora, e qui mi rivolgo all'onorevole Rossi, bellissimi discorsi che avete fatto, sottoscrivo, ma poi chi li approva? La ringrazio, lei ha già fatto la domanda a Nicola Rossi, senatore. Quello che dice l'ascoltatore è verissimo, diciamo, perché quando si è trattato di discutere degli ordini professionali, nonostante fossimo in una situazione di tale gravità che addirittura anche l'opposizione aveva concordato nell'accorciare i tempi di approvazione della manovra, c'è stato un pugno di avvocati che, devo dire, di tutte le parti purtroppo, che addirittura ha messo in forse l'approvazione della manovra pur di vedere spunte le norme sugli ordini, su alcuni ordini professionali. Quindi che il problema ci sia è visibile ed evidente. Io penso però che il punto sia dall'altro lato, che questo paese da 20 anni, ormai 25 anni, non cresce più. Francamente, rispetto al precedente ascoltatore che parlava di crescita sfrenata, io non so bene in quale paese, diciamo, viva. Questo paese da 20 anni, 25 anni cresce all'1% quando tutto va bene, e cresce un punto in meno regolarmente della media europea. E questa la molla e l'urgenza. Di fronte a questa molla e l'urgenza, e di fronte, credo, anche alla spinta che l'Europa ci può dare da questo punto di vista, io ho l'impressione che probabilmente anche il Parlamento, come forse si sta vedendo, pian piano si acconcerà a fare anche cose che trova sgradevoli. Rieccoci con 9 in punto, stiamo parlando di liberalizzazioni, privatizzazioni, ma stiamo parlando soprattutto di cosa fare per affrontare quello che secondo me è il più grosso nodo dell'Italia, lo accennava il senatore Nicola Rossi, che è quello della crescita. Riavviando la crescita vanno a soluzione anche gli altri problemi. Cosa fare per riavviare la crescita? Donato Nasciandaro, sei d'accordo sul fatto che la crescita sia il problema di fondo? È il problema di fondo e lo dimostrano anche gli interventi che ci sono stati. Quali sono le attese? Le attese è vedere fare della politica economica. Se il signor tassista si lamenta che una privatizzazione o una liberalizzazione colpisce solo lui, ha ragione. Qui serve il Big Bang. Se un ascoltatore nota che la liberalizzazione una per volta non passano in Parlamento, ha ragione, perché occorre la volontà politica di farlo, quello che finora non c'è stata. Aggiungo anche che la polemica di questi giorni, di queste ore, sul commissariamento del nostro Paese, ben venga, nel senso che il nostro Paese ha dimostrato di non avere capacità di riformarsi da solo. Siccome non possiamo più essere né una colonia degli inglesi né una colonia dei tedeschi, forse cerchiamo di essere almeno un buon paese membro dell'Unione Europea. L'Unione Europea può essere il trampolino per fare certe riforme se c'è una classe politica che non è in grado di farle. Quindi le riforme vanno fatte, non ci sono certamente riforme facili, ma le riforme vanno fatte anche per questo. Intanto una buona notizia, anche se forse un po' troppo di euforia, la Borsa di Milano sta crescendo del 5% con le banche in primo piano, il Banco Popolare guadagna il 10%, la Banca Popolare di Milano l'8%. Ecco, magari ricordo che la Borsa ha perso notevolmente nei giorni scorsi, se ha perso il 10% per recuperare le posizioni di prima, non deve recuperare solo il 10%, ma l'11% o qualcosa di più, perché per recuperare quando si scende un po' più in basso, matematicamente bisogna salire un po' di più, almeno in percentuale. Ci sono alcune domande dai nostri ascoltatori molto puntuali che io giro al presidente Catricalà. Per esempio, una cosa che interessa molto i cittadini automobilisti è il fatto che il prezzo della benzina continua ad aumentare e poi leggiamo che il prezzo del petrolio continua a diminuire, anche se di poco. Questo è un tormentone che ormai da anni va avanti, ma cosa si può fare sul fronte dei distributori di carburante, delle grandi compagnie petrolifere, di chi è la colpa, se vogliamo parlare di colpa di questa situazione? Presidente Catricalà. Ma intanto diciamo che il prezzo dipende da un indice che si chiama Platz. Noi stiamo indagando per capire se questo Platz è sufficientemente trasparente o nasce da una sorta di indicazione che danno gli stessi operatori direttamente interessati a che il prezzo resti alto. Speriamo che sia trasparente, altrimenti ci troveremmo a dover aprire una procedura fuori dei confini nazionali e di livello internazionale. Per quanto invece riguarda i fatti nostri, noi abbiamo un problema di inefficienza della distribuzione, però mi sembra che su questo il piano del governo sia un piano condivisibile. Si tratta di aumentare il numero delle pompe bianche, dobbiamo aiutare i supermercati ad ottenere i permessi per inserire, per edificare le pompe di benzina nei loro parcheggi, in modo che non siano solamente gli 8 grandi competitor internazionali presenti sul mercato italiano, ma ci siano anche altri soggetti che senza i colori di una determinata compagnia possono vendere abbassando i prezzi. Naturalmente i benzinai dovranno godere anche loro di liberalizzazioni, per cui potranno rifarsi se perdono qualcosa sulla benzina vendendo panini, bibite, giornali, non lo so, piatti caldi, cioè il cosiddetto non oil, che finora è praticamente proibito, è una sorta di miraggio per loro, perché gli viene sempre promesso e poi non riescono mai ad ottenerlo. Ecco, quindi su questo fronte qualcosa si può fare, rientra un po' in quella liberalizzazione del commercio, liberalizzazione degli orari nei negozi, su cui anche su questo fronte ci sono molte resistenze da parte dei commercianti. Sì, soprattutto in posti turistici dove è incredibile che si debba tenere chiuso un negozio di sabato, di domenica. Noi abbiamo necessità di liberalizzare anche questi settori, il consumo deve essere incentivato, cioè ci mancherebbe, se cala la domanda, ma su che cosa si fonda poi tutto il mercato? Qui Rossi e Maciandaro ne sanno molto più di me, però io penso che un aiuto alla domanda comunque vada dato, ed un aiuto è anche consentire ai cittadini di andare a fare la spesa di domenica, andare a fare la spesa fuori degli orari convenzionali, che sono gli stessi orari degli uffici. Ecco, su certi fronti poi il mercato dovrebbe regolarsi da solo, dare la possibilità, appunto, dove le iniziative diventano meno economiche, meno convenienti dal punto di vista economico. Se un negozio resta aperto la domenica e non fa affari, sarà lo stesso negozio a decidere di non restare aperto. Ecco, su questo fronte ci sono anche alcune domande per il senatore Rossi, ma alcune si chiedono, va bene il vincolo di bilancio, però allora bisogna cominciare a far sì che lo Stato spenda di meno. Dove intervenire per spendere di meno? Senatore Rossi. Dunque, la proposta prevede, oltre al vincolo di bilancio, anche un limite alla spesa, cioè la spesa pubblica complessiva non dovrebbe superare il 45% del PIL. È un obiettivo facilmente raggiungibile, nel 2014 saremo in prossimità del 46-47, quindi arrivare al 45 nel 2020, come si immagina, è un obiettivo raggiungibile. Da dove cominciare? La mia personalissima valutazione è che il grasso, se così posso dire, nella spesa pubblica sia ampio. Ha a che fare sia con istituti, per esempio, che avevano un senso una volta e che oggi non lo hanno più. Le pensioni di anzianità, al netto dei lavori usuranti, ma le pensioni di anzianità sono un esempio abbastanza ovvio. Ha a che fare con una struttura barocca della pubblica amministrazione, e si pensi alle province, per fare solo il primo esempio, diciamo, che può venire in mente. Ha a che fare con alcune attività che vengono svolte per massimizzare l'intermediazione dello Stato, non l'effetto finale. Mi spiego: invece di dare contributi alle imprese, che oggi vengono dati per quantità non piccole, stiamo parlando di 4-5 miliardi di euro, si potrebbe tranquillamente ridurre le imposte alle imprese stesse, con felicità delle imprese e certo riducendo il potere di intermediazione della politica. Lo spazio per fare attività di questo genere è ampio. Se io escludo ciò che ha a che fare con i compiti di fondo dello Stato, le cose per cui noi vogliamo che uno Stato esista, le cose che sono previste, che la Costituzione prevede che lo Stato faccia, mi rimangono ancora qualche cosa come 100-120 miliardi di euro che dovrei giustificare euro per euro prima effettivamente di spendere. Quindi credo veramente, diciamo, che se si va in quella direzione lo spazio è tanto, ed è un'autostrada per la politica quella vera, che deve scegliere e non solo deve accedere a tutte le richieste sapendo che poi pagano le generazioni future. Certo, sul fronte appunto della riduzione della spesa si parla spesso di abolizione delle province, sarebbe una misura, non dico facile, però doverosa, quando ci sono i comuni, ci sono le regioni, la possibilità di togliere un centro di spesa, perché poi alcune riduzioni sono proprio riduzioni nell'ottica di togliere dei centri di spesa, togliere proprio la fascia politica. Poi gli uffici tecnico-amministrativi possono restare tranquillamente alle dipendenze della regione o dei comuni. Di aggiungere, di fare una osservazione su questo punto, perché è bene che gli ascoltatori capiscano dove sono effettivamente le resistenze. In un dibattito in commissione bilancio mi è capitato di dire: lasciate le province come sono, ma sostituite gli attuali consigli provinciali con i sindaci dei paesi che compongono le province, allo stesso stipendio. La risposta è stata: ma tu così vuoi minare le radici della democrazia. Ed è una è una difesa di seggiore e poltrone, come si dice in questi casi. E intanto è uscito un comunicato del G20, 20 grandi paesi, ministri delle finanze e governatori delle banche centrali affermano il proprio impegno a prendere tutte le iniziative necessarie in modo coordinato per sostenere la stabilità finanziaria e per stimolare una crescita economica più forte in uno spirito di cooperazione e fiducia. Donato Maciandaro, solo parole? L'importante è che nessuno si dimentichi che siamo su un piano inclinato. Spero che anche movimenti positivi di oggi non facciano dimenticare a nessuno quali sono le urgenze. Questa è la mia più grande preoccupazione, perché siamo riusciti a dimenticare subito le lezioni della crisi finanziaria. Temo che senza l'emergenza la classe politica non sia in grado di fare nulla. Ecco, appunto, quando parlavo prima di troppa euforia per il 5%, proprio questo fatto, non pensiamo di aver risolto i problemi con qualche dichiarazione di principio. Indubbiamente è troppo quando la borsa scende del 4 del 5% e anche troppo quando sale del 5%, perché poi la borsa, riferendosi alla realtà economica, dovrebbe sì aggiustarsi, ma questi salti danno un segno di instabilità. Una parola conclusiva al presidente Catricalà. Ma speriamo adesso che non sia attentare alla democrazia, come diceva Nicola Rossi, e sperare che effettivamente queste liberalizzazioni comunque si facciano, cioè che si metta veramente mano alla effettiva redazione dei testi, perché qui si tratta di scrivere delle norme e farle approvare. Poi ci sarà un ulteriore problema, quello di farle applicare, però intanto, se vogliamo fare una cosa, cominciamola. Grazie Presidente Catricalà. Ovviamente il problema è complesso, non esistono soluzioni facili per problemi complessi, esistono soluzioni sbagliate, cerchiamo almeno di evitare delle soluzioni sbagliate, di fare dei piccoli passi ma nella direzione giusta, e aprire i mercati, liberalizzare, certamente con cautela, certamente con rispetto, certamente con gradualità, ma andare verso questa prospettiva culturale anche di premiare il merito, la capacità, la professionalità, è importante per un paese come l'Italia. Grazie a Donato Masciandaro, docente di economia politica Carla Bocconi, grazie a Nicola Rossi, senatore del gruppo Misto, grazie al presidente Antonio Catricalà, dell'autorità garante della concorrenza del mercato, grazie agli ascoltatori, così come in regia Carmelo Valicella, in redazione Alessandro Marco Tulli. L'appuntamento è per domani.